24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:31 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua con 24 mattino in diretta fino alle 9. Oggi di cosa parliamo nel nostro sondaggio delle 8:30, già votabile su radio24.it o ilsole24ore.com? Beh, l'avete sentito, insomma, il ministro Alfano, il ministro della giustizia, ieri parlando della lotta alla mafia, dei successi anche con i latitanti ultimi mafiosi arrestati, ha detto: vedete, se si lavora di più in procura e si va meno in TV, si va meno ai convegni, forse si arresta qualche latitante in più. Era ovviamente riferito ai magistrati. Meno in TV, lavorate di più. Siete d'accordo con il ministro Alfano? Sì o no? Ne parleremo alle 8:30. Già state votando in molti, c'è da dire che per ora la tendenza, il 57% di voi dice no, non siamo d'accordo. Alle 8:30 ne parliamo, ora la lettura dei giornali. In primo piano. Ed è questo uno dei temi scelti da alcuni giornali come il Corriere della Sera: Alfano ai magistrati, meno TV. Questo per le aperture. Magistrati in rivolta contro Alfano per Repubblica, più sulla questione per esempio, il processo breve o la mobilitazione sulle procure sguarnite. Basta teleprocuratori, Libero. Processo breve al Tolà del CSM, invece l'apertura della Stampa, quindi tema giustizia, ma sul processo breve la decisione, la pronuncia del CSM sul processo breve in discussione. Dunque questo tema è giustizia molto in primo piano per alcuni. Le aperture economiche, il Sole 24 Ore si concentra sulla vicenda Grecia. Dalla BCE, out ad Atene. Draghi, troppi rischi, preparare la exit strategy senza ridurre gli aiuti. Tra l'altro sulla Grecia ci sono anche tanti commenti e una notizia proprio sul Sole 24 Ore in esclusiva interessante che poi vedremo. Finanziaria blindata e scontro per il Messaggero, mentre il giornale: Silvio pronto a ridurre le tasse da gennaio, mano alle forbici, poi vedremo anche questo. Ma proprio partiamo dal tema che è il nostro anche sondaggio. Il nostro sondaggio su, secondo voi, ha fatto bene Alfano? Siete d'accordo con Alfano che ha detto meno convegni, meno TV, lavorate di più, cari magistrati? Dal Corriere della Sera: Alfano, PM, meno convegni, lite con l'ANM, che è il sindacato dei magistrati. Ci sono poi i commenti di chi è favorevole, chi è contrario. Favorevole, per esempio, all'appello di Alfano è il magistrato Carlo Nordio, procuratore aggiunto a Venezia, che dice: meno i magistrati vanno in TV, meglio è. E in ogni caso mai, e dico mai, devono andare in TV i magistrati giudicanti, perché il giudice parla solo attraverso le sentenze e basta. Quanto ai pubblici ministeri, dice Nordio, c'è una confusione, perché la confusione è data dal fatto che, da un lato, il magistrato appartiene all'ordine dei giudicanti con le relative garanzie di indipendenza, dall'altro è il capo della polizia giudiziaria e quindi è il referente delle indagini, è insomma il front desk delle indagini. L'opinione pubblica, insomma, da una parte ha il diritto di sapere come si sta procedendo, non si può aspettare sempre e solo il momento del dibattimento. Contrario invece alle parole di Alfano è per il Corriere Paolo Borgna, procuratore aggiunto a Torino. Il magistrato non solo ha il diritto, ma anzi ha il dovere di parlare pubblicamente di legislazioni. Le discussioni pubbliche avvengono sui giornali, nei convegni, nei dibattiti televisivi. Non vedo la differenza. Non far parlare i magistrati è incostituzionale, ma è anche miope, perché chi ne deve discutere se non gli operatori del settore giustizia? Chiede Paolo Borgna. Ma insomma, il tema è aperto. Di certo parla, per esempio, su Repubblica il procuratore Antonio Ingroia di Palermo. Tra l'altro qualcuno dice forse si riferiva proprio a Ingroia. Alfano non ha fatto nomi, però per esempio Libero, che appunto titola Basta teleprocuratori, mette in pagina 2 le foto di chi? Di Pier Camillo Davigo, oggi in Cassazione, di Giancarlo Caselli, che tra l'altro vi annuncio sarà il nostro ospite alle 8:30, e di Antonino Ingroia, per l'appunto procuratore a Palermo, uno che ha lavorato molto con Falcone Ingroia dice a Repubblica: fondamentale parlare con la gente, come facevano Falcone e Borsellino. Non posso che ringraziare il ministro della giustizia per i complimenti fatti ai magistrati e ai poliziotti dopo l'arresto di 3 latitanti. Ma il segreto del nostro successo non è soltanto stare in ufficio fino a tarda sera. Dice Ingroia a Salvo Palazzolo: la lotta alla mafia si vince creando un forte contatto con la gente. Ecco perché i magistrati partecipano a convegni e trasmissioni. Tutti ricordano le interviste di Falcone al Costanzo Show. E poi ancora del problema mafia non si parla mai abbastanza. Insomma, questa è la posizione di Ingroia, mentre, come detto, Libero è molto critico. I teleprocuratori pronti a tutto pur di apparire. È un editoriale del direttore Maurizio Belpietro. Sostanzialmente dice: non saltano una comparsata in TV, ma quando c'è da fare il loro mestiere perdono subito ogni entusiasmo. E la critica è qui a dire la colpa del fatto che molte procure sono scoperte di posizioni è proprio dei magistrati, che non vogliono trasferirsi e non c'è l'obbligo di trasferimento. Dunque la posizione è questa. Che ne pensate? Ripeto, è il nostro sondaggio. Siete d'accordo col ministro Alfano che dice troppo in TV, non andate in TV e lavorate di più, oppure non siete d'accordo? Votate. La vicenda mafia, ieri insomma si è parlato di arresti, del punto fatto dal ministro Maroni e dal ministro Alfano su le importanti operazioni dei giorni scorsi contro la mafia, anche se sulla mafia pende ancora, e lo ricorda anche il Corriere della Sera, quella che è la vicenda Spatuzza, perché ricorda il Corriere: domani toccherà i fratelli Graviano. Chi sono i fratelli Graviano? Sono i boss di Brancaccio, quartiere di Palermo, per i quali lavorava da mafioso Spatuzza. Spatuzza alla prova dei Graviano. Domani Graviano parleranno e si attende per capire se confermeranno le parole di Spatuzza oppure smentiranno, oppure no. I due capi mafia domani dovranno confermare o smentire il pentito. È un articolo che trovate a pagina 6 del Corriere della Sera di Giovanni Bianconi. Un'altra vicenda legata alla criminalità organizzata, ben diversa, ma insomma è anche un tema del giorno, è oggi il voto su Cosentino. Cosentino, sottosegretario agli interni, per i quali la Procura di Napoli ha chiesto l'arresto per vicinanza sospetta con i casalesi. Oggi c'è il voto definitivo. Voto su Cosentino, il PDL si blinda per il no alle manette. Guido Ruotolo, che ne scrive sulla Stampa, pagina 3, è il giorno del giudizio per Nicola Cosentino, si aggrava la sua posizione processuale, scrive Ruotolo, ma a Montecitorio ci sarà certo qualche deputato vigliacco eletto dal PDL, paventa l'ex Aennino Amedeo La Boccetta, che con il voto segreto tirerà un colpo mancino, ma i numeri sono tali che l'aula della Camera respingerà la richiesta di autorizzazione all'arresto, anche perché, ipotizza il finiano Italo Bocchino, voti contro l'arresto potrebbero arrivare anche dall'opposizione. Ora, sostanzialmente, questo è il giorno in cui si deciderà definitivamente. Trovate molto sul tema giustizia, ancora, ripeto, il CSM ha detto il processo breve secondo noi a rischio incostituzionalità, ma insomma questo ve lo risparmio. Vorrei concentrarmi su un altro tema legato alla giustizia, o meglio un'inchiesta che ieri è stata anticipata dall'Unità e oggi è esplosa su tutti i giornali. L'inchiesta riporta qualche anno fa, al 18 luglio 2005, quando, forse lo ricorderete, è una vicenda abbastanza clamorosa, l'allora segretario dei DS Fassino era al telefono con il capo dell'Unipol consorte durante il periodo della scalata BNL e ci fu questa famosa telefonata nella quale Piero Fassino chiese a consorte: ma è vero che abbiamo una banca? Allora, questa telefonata, questa intercettazione finì su Il Giornale, era credo il 31 dicembre del 2005, esatto, sul giornale di proprietà di Paolo Berlusconi, fratello del premier Berlusconi e della Mondadori. Ora, perché c'è un'inchiesta? Perché quell'intercettazione era sostanzialmente secretata, non era agli atti, era un file che era un file audio noto esclusivamente ai PM e alla Guardia di Finanza. E allora ci si chiede: chi ha passato al giornale questa intercettazione? Fassino intercettato, denuncia di Di Pietro. Leggo il titolo da Il Giornale. Lo trovate però ovunque. Repubblica, BNL, il nastro di Fassino ceduto a Berlusconi. La vicenda intricata la provo a spiegare leggendo quello che Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella scrivono appunto su Il Corriere della Sera. Unipol, il leader dell'Italia dei Valori, innesca un'inchiesta sulla telefonata pubblicata dal giornale nel 2005. Accesso abusivo a sistema informatico nel 2005, rivelazione di segreto d'indagine, corruzione, sono le ipotesi di reato iscritte nell'inchiesta BIS che la Procura di Milano, dopo aver fallito all'epoca l'individuazione del pubblico ufficiale Talpa, sta conducendo dal 3 ottobre a partire da una denuncia di Antonio Di Pietro sui retroscena della fuga di notizie nell'indagine Antonveneta. Uno spiffero culminato appunto nella pubblicazione sul giornale dell'intercettazione in cui Consorte e Fassino parlavano. Questo file, scrivono Guastella e Ferrarella, era appunto noto solo alla Guardia di Finanza, neppure era riassunto, non era depositato agli atti. Da mesi un imprenditore con disavventure giudiziarie, tale Fabrizio Favato, propone a giornalisti, magistrati, avvocati, politici la sua verità. Lui e l'amministratore Roberto Raffaelli della Research Control System, vale a dire la società che svolse le intercettazioni per IPM, sarebbero andati ad Arcore la vigilia di Natale 2005 recando in dono a Paolo e Silvio Berlusconi la telefonata pubblicata 7 giorni dopo dal giornale. A cavallo dell'estate 2009 Favato va a Milano in un settimanale, va a Roma in un quotidiano, ma nessuno lo ascolta. Va dai PM dell'antimafia milanese, tratteggia invece un'altra storia, ma si rifiuta di verbalizzare. Va da un altro PM, poi da un pool finanziario, ma rifiuta il verbale. Va dallo stesso Raffaelli, cioè l'amministratore delegato di questa Research Control System. Va da un avvocato dello studio dell'onorevole Ghedini, il legale di Berlusconi. Poi va dal leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro. Sabato 3 ottobre Di Pietro si presenta ai PM di Milano e dice: ho una storia da raccontare, sulla base di questa denuncia ecco che è nata questa inchiesta. L'accusa insomma è questa di questo Favato, questo imprenditore che dice: io feci per la RCS Research Control System questa intercettazione e la portai in dono a Silvio Berlusconi la vigilia di Natale e poi uscì sul giornale. Ora, sull'Unità, che ieri appunto ha lanciato questa cosa, questa inchiesta, c'è oggi commenti, per esempio l'avvocato di Berlusconi, Pietro Longo, che dice: nessun commento, non leggo l'Unità di questa storia, non ne sappiamo nulla, mentre Ghedini dice: la vicenda, così come ricostruita sull'Unità, è del tutto priva di fondamento. Le indagini non potranno che dimostrare la totale estraneità del presidente Berlusconi e di Paolo Berlusconi. Il Fatto Quotidiano addirittura ci apre: Fassino, il giornale e l'utilizzatore finale, la telefonata secretata con consorte portata a Berlusconi. E il giornale, visto che è citato, il giornale intanto ha cambiato direttore nel frattempo, ma comunque il giornale di Vittorio Feltri ora invece oggi parla di l'apertura di tasse. Silvio pronto a ridurre le tasse, così voglio introdurre i temi economici del giorno che trovate sui giornali. Superata l'emergenza giustizia, subito in agenda questione fiscale e riforme liberali. È un appello del direttore Vittorio Feltri che in un editoriale lungo editoriale scrive: quando sarà passata la turbolenza giudiziaria bisognerà pensare seriamente a cambiare registro. Per esempio, per scendere sulla concretezza, vorrei dire che si dovrà evitare con cura di prendere il TFR, cioè il denaro dei lavoratori, per finanziare la cosiddetta spesa ordinaria. È antipatico, e lei ce lo insegna, è una lettera a Berlusconi, rompere il salvadanaio dei cittadini, impiegarne il contenuto per la gestione della pubblica amministrazione. Catalogheremo quest'anno il prelievo alla voce prestiamo l'oro alla patria, ma in futuro preferiremmo tenercelo quell'oro, e credo di interpretare il pensiero di molti lettori. E rammento, scrive ancora Feltri, poi, che quando fu Padoa-Schioppa a pigliarsi le nostre liquidazioni gliene dicemmo di tutti i colori da questo e altri giornali. E poi un altro appello di Feltri a Berlusconi: le farei anche notare un altro aspetto della finanziaria, il taglio a mio giudizio avventato ai sostegni finanziari per la stampa. D'accordo, è una foresta meritevole di essere disboscata, ma attenzione, se tagliare i rami secchi è opportuno, non lo è farlo a scapito dei poveri risparmiando i ricchi. Così dice Vittorio Feltri, come dire: caro Berlusconi, ora passata la buriana giudiziaria tagliamo le tasse. in primo piano. Come detto, trovate molto di finanziaria sui giornali, ma io voglio concentrarmi anche sulla vicenda, insomma, di finanza europea in questo caso, perché, beh, come detto, l'apertura del Sole 24 Ore è dalla BCE out ad Atene. In Grecia c'è una situazione finanziaria un po' traballante. Un anno di tempo per riportare sotto controllo il deficit, questo è il monito giunto ieri dalla Banca Centrale Europea al governo di Atene. Il premier Giorgi Papandreou ha assicurato il massimo impegno per impedire il default, ma sostanzialmente la situazione non è facile. Ultimatum BCE alla Grecia, si legge all'interno del Sole 24 Ore, ed ecco qui la notizia che avevo anticipato in esclusiva sul Sole riguardante la Grecia. La scrive Moria Longo sul Sole, appunto: il cerino greco in mano al Pirellone. Chiamatelo effetto boomerang della finanza o dei conflitti di interesse, chiamatela casualità o anche sfortuna. Sta di fatto che la crisi della Grecia rischia di creare seri problemi ad uno dei più virtuosi enti locali italiani, la regione Lombardia. Se la Repubblica Ellenica finisse malauguratamente in default, a pagarne le conseguenze sarebbe proprio la Lombardia. Il motivo: a garanzia del prestito obbligazionario emesso dalla regione nel 2002 c'è per 115 milioni di euro proprio un bond della Grecia. Se Atene salta, dunque, la Lombardia soffre. Magia della finanza che per anni ha concatenato i destini di migliaia di debitori l'uno all'altro. È appunto qualcosa che il Sole 24 Ore è in grado di documentare, cioè vale a dire prestito obbligazionario da $1 miliardi con scadenza del 2032, un'operazione curata da due banche estere, la Svizzera UBS e l'americana Merrill Lynch, che hanno utilizzato, anche hanno investito i denari della Lombardia in vari titoli obbligazionari. Uno di questi è proprio della Repubblica Ellenica. UBS ha messo nel sinking fund della regione Lombardia 115 milioni di euro di obbligazioni greche. E da qui, insomma, il legame con la Grecia, in questo caso legame che fa un po' evidentemente tenere il fiato sospeso i conti della Lombardia, del Pirellone. C'è poi il monito di Draghi, che ieri, l'altro ieri, e quindi era ieri sui giornali, era stato molto duro a dire attenzione, perché c'è un debito pubblico e privato mondiale che, vedendo anche quello che sta succedendo a Dubai, rischia di mettere in futuro in seria difficoltà altre piazze, altri stati, altri mercati. Draghi: mercati ancora fragili. Ancora oggi sul Sole 24 Ore, secondo il governatore di Banca Italia, la fiducia è tornata, ma i listini restano vulnerabili. Tanto che anche la stampa della lezione di Dubai, mercati vulnerabili, è Mario Draghi che parla, cioè, o meglio, che parla, insomma, è il riassunto delle sue opinioni. Voglio andare alle segnalazioni di altro tipo. Beh, trovate sul Corriere della Sera un Prodi, Romano Prodi, l'ex premier, che è stato assunto dalla TV di Stato cinese. Era in Cina, assunto come cosa? Come opinionista, commentatore di politica internazionale. Tra l'altro gli hanno fatto anche degli studenti una domanda su Silvio Berlusconi: che ne pensa? Preferirei non rispondere, ma Berlusconi non lo capisco. La democrazia è la democrazia. Io ho vinto due elezioni, ma ho avuto un voto di sfiducia, ho abbandonato la politica. Oggi la maggioranza è con lui. Questa è la frase di Prodi su Berlusconi. Trovate su Il Messaggero un'intervista, che poi, come al solito in questi casi, sono un po' fittizie, a Raffaele Sollecito, condannato per l'omicidio di Meredith Kercher. Un'intervista, cioè domande mandate all'avvocato che le ha girate a Sollecito, il quale ha risposto. E il Messaggero, Italo Carmignani, Vanna Ugolini, mette questa domanda e risposta. Vabbè, insomma, risposte un po' banali: mi manca la famiglia, speravo di essere assolto, senza la famiglia non ci sarei più, penso che sarò comunque libero altrimenti impazzirei, credo nella, mi appoggio alla fede in Dio, ho paura dell'incertezza del futuro. Insomma, non un'intervista che resterà negli annali. Poi dice di Amanda Knox: ne è innamorato, non sono innamorato, ma la sento vicina perché la considero compagna di sventura, non oso neanche pensare che possa essere una ragazza che ha ucciso, è assurdo, è improponibile, lei è una ragazza dolcissima. Vabbè, archiviato Sollecito, voglio tornare sul Corriere della Sera per una segnalazione finale: mamme contro la suora. che succede? Succede alla scuola elementare Jean Piaget di Via Suvereto a Roma che la preside Maria Matilde Filippini ha chiamato come nuova maestra d'italiano della seconda C una suora. Qual è il problema, dite voi? Beh, che in una scuola pubblica qualcuno si è arrabbiato. Suora Annalisa Falasco, padovana, 61 anni, laureata col Cardinal Martini, buona amica del Cardinal Tettamanzi, insegna da 8 anni nelle scuole pubbliche, si definisce scherzosamente solo una suora precaria. Porta il velo nero, ma non porta il crocifisso, perché dice il crocifisso lo porto dentro di me. Sono una suora moderna, so navigare su internet, sono una cittadina italiana, ho avuto l'abilitazione all'insegnamento, ma ci sono delle mamme che dicono siamo pronte a ricorrere al TAR. Qui non si discute la persona, la suora sarà bravissima, ma io contesto, per esempio dice una mamma, l'istituzione che rappresenta, cioè la Chiesa. Voglio vedere cosa dirà la maestra a mio figlio quando Valerio le chiederà come è nato l'universo. Io sono atea e credo che la scuola pubblica debba essere quantomeno laica, o no? Interessante. La preside risponde: per me questa è solo demagogia, razzismo laico. Alle mamme ho detto: allora cambiate scuola, perché io non cambierò classe ai vostri figli. La suora è arrivata da 3 giorni, fatela lavorare. Eccoci qua alle 8:17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Diamo spazio all'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Buongiorno. Eccoci qua. Deborah, ecco Rosciani. Peter che non accende il microfono, visto che non sono solo io l'imbranata della tecnologia. Rosciani imbranata, no, Peter Bescapè imbranato e Rosciani ferita. Si è rotta un'unghia poco fa. Sapete che per le donne sono drammi. Mentre tentavo di accapigliarmi con te, come tutte le mattine, come tutti sanno, certo, mi si è scheggiata anche l'unghia. Buongiorno. Buongiorno. Bollette del gas, la vignetta di Vauro. Non vuoi leggerla sul manifesto? È troppo divertente. E adesso me la sono persa, me la sono lasciata. Sì, di ma là. Insomma, c'era questo vecchietto con stremato a terra, proprio visto che è stata pluriannunciata questo aumento della bolletta del gas a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Insomma, c'era lui che faceva rifornimento attaccandosi proprio al tubo del gas della sua stufa casalinga. Le bollette tornano a salire, non è un imperativo categorico, è una eventualità, questo dobbiamo chiarirlo subito. Ma per quello che riguarda il gas, dal 1 gennaio del prossimo anno potrebbe registrare un aumento del 2,8%, un rialzo che è legato alla recente ripresa delle quotazioni del petrolio, che per le famiglie italiane si potrebbe tradurre in una maggior spesa annua di circa 26 euro. L'aumento del costo del metano nel primo trimestre del prossimo anno è stato annunciato, previsto dagli esperti di Nomisma Energia e se confermato dall'autorità per l'energia, segnerà il primo rialzo delle bollette del gas dopo un anno, perché erano 4 trimestri che le tariffe del metano registravano ribassi. Ferma invece la luce per i primi mesi dell'anno prossimo, sempre secondo Nomisma, non dovrebbe registrare variazioni. Nomisma ha ricordato anche, comunque, perché poi questa è una polemica di cui raccontiamo sempre, che ovviamente l'ultima parola in tema di tariffe per i prossimi mesi spetta all'autorità. Questa è una precisazione che è stata fatta ieri anche con grande fermezza dal ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, ma in ogni caso qualche cosa si sta muovendo, qualcosa bolle in pentola, perché recentemente il petrolio ha ritoccato gli $80 al barile e per questo appunto gli effetti i consumatori prima o poi ne risentiranno. Tra l'altro, accanto a tutto questo c'è anche la benzina che ha rialzato la testa. Da qualche settimana si segnalano ritocchi all'insù dei listini, aspetto che le associazioni dei consumatori segnalano, è stato molto evidente con il traffico intenso sulle strade in questo ponte dell'Immacolata che si è chiuso. Allora, quello che ci interessa capire stamattina è verso quale scenario complessivo tendiamo, se le famiglie e i consumatori che sono già alle prese con qualche problema di bilancio adesso dovranno tornare a preoccuparsi anche delle bollette. D'altronde il tema dell'energia, dei consumi energetici con la conferenza di Copenaghen è all'ordine del giorno dell'agenda mondiale. E allora facciamo un pochino di scenario stamattina con l'ingegner Carlo Mamna, responsabile ufficio studi dell'Enea. Ingegnere, buongiorno. Ci sente? Benissimo. Eccoci qua. Allora, buongiorno. Le chiedo subito intanto, in qualità di studioso di questi argomenti, ma anche in qualità, oltre che di osservatore, di consumatore che magari su questi temi ha una sensibilità più accentuata. Nel caso le previsioni di Nomisma fossero corrette, come affrontare un anno di rincari e quello del prossimo trimestre, secondo lei, potrebbe essere il primo di una serie di nuovi aumenti? Ma intanto Nomisma Energia, Tabarelli non parla di variazioni così sostanziali. Abbiamo addirittura una previsione di una riduzione del costo della bolletta elettrica, diciamo a seguito di una stabilizzazione del prezzo del petrolio sui livelli attuali, e c'è poi questa ipotesi invece di aumento sul gas. Non credo quindi che ci saranno variazioni molto significative, molto importanti. Questo però, per fare un discorso diciamo più complessivo, sì, ci deve portare a un'altra riflessione. Le questioni che riguardano il costo dell'energia sono sempre più strategiche e vanno affrontate con un piano. È quello che si sta mettendo in piedi a livello di ministeri, in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico sta affrontando queste tematiche, costruendo delle ipotesi di scenario insieme all'Enea, che fornisce un supporto ai ministeri, e la nuova agenzia Enea ha tra i suoi compiti principali proprio quello di fornire un supporto al decisore pubblico. Scenari che in qualche modo consentano al Paese di muoversi verso uno sviluppo che sia economicamente, ambientalmente sostenibile e d'altra parte in grado di rispondere agli obiettivi e quindi di ottemperare agli obiettivi che sono stati fissati a livello di Commissione europea per quanto riguarda la riduzione complessiva delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. E questo si dovrà fare per un paese come l'Italia, che è povero di fonti primarie di energia, soprattutto incidendo sul miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare sugli usi finali dell'energia. Mm-hmm. Ecco, quindi il consumatore, come anche l'impresa, ha questo compito davanti, che è quello di un uso più razionale dell'energia. Naturalmente non basta una volontà del privato o del singolo cittadino o dell'impresa, serve un impegno pubblico che dia una spinta, che dia un supporto a questa politica, ed è quello su cui si sta ragionando in questo momento. Ecco, tra l'altro nel nostro paese noi ne parliamo molto spesso, nei nostri contenitori economici si è fatta negli ultimi anni una grande politica proprio per incentivare il miglioramento, no, delle condizioni energetiche di tutto l'ambiente, adesso a prescindere da Kyoto, a prescindere da Copenaghen, però nel nostro paese no, non tanto a prescindere da Kyoto, perché poi le ragioni che hanno portato anche le novità legislative nel nostro paese derivano anche da quello, ma abbiamo incentivi fiscali per esempio per le auto ecologiche, abbiamo incentivi fiscali per convertire le nostre abitazioni. Io credo, ingegner Manna, poi lei mi dica se sbaglio, che tutto questo costituirà anche il presupposto di discussione alla prossima conferenza nazionale dell'energia che si svolgerà nel nostro paese nella prossima primavera. Quali saranno i punti al centro del dibattito? La nostra dipendenza dall'estero per soddisfare il nostro fabbisogno energetico, noi siamo all'85%, un grado molto superiore alla media europea, oppure anche l'educazione al consumo responsabile? Che impegni ha il nostro paese sui quali è bene che il cittadino sia informato? Lei ha centrato il problema fondamentale, probabilmente è proprio quello di far crescere la consapevolezza dell'importanza dell'uso delle risorse. Adesso stiamo parlando di energia, ma potremmo fare un discorso analogo, che so, per l'acqua ad esempio, no? Probabilmente le prossime tematiche che saranno alla ribalta mondiale riguarderanno ad esempio l'acqua, una risorsa che come l'energia evidentemente non è infinita e comporta gravi problematiche per l'accesso. Ora, sicuramente questa consapevolezza dell'importanza di un uso razionale delle risorse è il punto fondamentale, ma la conferenza dovrà arrivare a dei punti fermi su cui impegnare praticamente tutto il sistema Italia. Quindi se da una parte sarà necessario intervenire in modo più massiccio per far crescere questa cultura però deve permeare anche l'impresa e l'impresa deve essere sostenuta in questa direzione. L'Italia essenzialmente deve puntare intanto sul miglioramento dell'efficienza energetica. Noi abbiamo il parco termoelettrico tra i più efficienti d'Europa, questo è vero, sono stati investimenti fatti sostanzialmente negli anni 80, ma ci sono ancora margini importanti di efficientamento a livello ad esempio del residenziale. Le nostre case non sono sicuramente tra le più efficienti d'Europa, quindi capisce quanto è importante incentivare interventi che migliorino il modo di costruire, ma che incentivino anche interventi per il miglioramento dell'edilizia esistente da un punto di vista della dispersione del calore. Poi c'è il discorso delle fonti rinnovabili, che è fondamentale. Ed è un discorso però che va preso da, in particolare da due punti di vista. Da una parte sarà necessario che il sistema della produzione, quindi aumenti la capacità produttiva del paese in tecnologie, sistemi, componenti per le fonti rinnovabili. Sì, oggi... la prego di concludere intanto in Germania perché stiamo chiudendo il nostro tempo di sintetizzarsi. Certo. Quindi migliorare questo perché oggi noi importiamo una quota molto elevata dei componenti, ad esempio del fotovoltaico che installiamo. Sì. L'altra questione riguarda il miglioramento della rete elettrica, quindi investire sulle reti elettriche per consentire un utilizzo completo non solo delle fonti rinnovabili che riusciamo a utilizzare nel nostro paese, ma anche i collegamenti con le reti di altri paesi, quindi benissimo, interconnessioni a livello europeo e anche intercontinentale. Sicuramente in primavera ne sapremo di più rispetto a tutto questo. Ingegner Mann, io la ringrazio intanto, le auguro una buona giornata. Grazie anche a voi. E tutto questo peraltro mentre si ritorna a parlare anche del nucleare. Alessandro ne ha parlato ieri, oggi Oscar Giannino di nuovo ci ritorna alle 9. Alessandro, insomma, il tema dell'energia in termini generali è... caldissimo. E certo. Alle 12. Ovvio. Alle 12. Orto fatto in casa. Oggi bene. È tutto in programma. Adottiamo gli animali a distanza, balcone, fattorie e quant'altro. Allora, Alfano ha detto: magistrati meno in TV e più in procura, così magari catturate qualche latitante in più. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Riprende oggi alla Camera la discussione generale sulla legge finanziaria. L'opposizione alza le barricate contro il governo, che intende probabilmente porre la fiducia sulla manovra, probabilmente martedì prossimo. Oggi alla Camera si vota anche a scrutinio segreto sulla richiesta della Procura di Napoli di arrestare il sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, accusato di rapporti con la Camorra. Oggi il presidente americano Obama riceve a Oslo il premio Nobel per la pace. Nel suo discorso, fanno sapere alla Casa Bianca, affronterà anche l'apparente contraddizione di un riconoscimento di pace dato a un leader in guerra. E infine per il calcio, l'Inter batte 2-0 Rubin Kazan, accede così agli ottavi di Champions League, come la Fiorentina, che già qualificata ha vinto anche a Liverpool 2-1 e chiude prima il girone. E dunque nel nostro sondaggio di oggi, come detto, ci concentriamo sulle parole che ha detto il ministro alla giustizia Alfano. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Il ministro Alfano col ministro all'interno Maroni erano ieri a fare una conferenza stampa, a fare il punto sugli importanti arresti degli ultimi giorni, la lotta e il contrasto alla mafia. Sentiamo che cosa ha detto il ministro Alfano. Un ringraziamento particolare al procuratore della Repubblica di Palermo, al procuratore Messineo, per il tris raccuglia nicchi fidanzati che ha consentito di decapitare la mafia palermitana e che ha dato l'idea duplice di un qualcosa che viene troppo spesso trascurato, e cioè che si può battere e vincere la mafia senza fare il giro di tutte le televisioni nazionali, che si può combattere e vincere la mafia senza fare convegni. Anzi, che forse lavorando di più in procura e dando l'esempio ai colleghi di un lavoro senza le luci accese della telecamera si arrestano più latitanti e quindi qualche convegno in meno e qualche latitante in più fa bene al paese. Allora, complimenti sì, ma un po' meno riflettori, un po' meno in TV, un po' meno convegni e più in procura, e magari si arrestano ancora più latitanti. Siete d'accordo con questa posizione del ministro Alfano? Io intanto voglio chiedere al procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli, che saluto, buongiorno. Buongiorno che, a voi. Che rimarrà con noi qualche minuto in apertura, di questo la ringrazio. Tra l'altro il procuratore Caselli che ha scritto un libro da poco, Le due guerre, perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia. Lei è procuratore a Torino, è stato tanti anni anche procuratore capo a Palermo, ha inseguito tanti latitanti, prima del terrorismo, del brigatismo, poi della mafia. Che effetto le fanno le parole del ministro Alfano? Inseguito e catturato dalle forze dell'ordine. A Palermo basta fare i nomi di Riina, Brusca, Bagarella, Aglieri, Dei Graviano, Ganci, Madonia, Vito Vitale, via seguitando. Le parole del ministro Alfano mi sembrano le parole di un simpatico burlone, ecco, come dire. Il ministro Alfano sembra pretendere che di giustizia possano parlare tutti, proprio tutti, a volte con toni da bar dello sport, mentre i soli che dovrebbero stare zitti sono proprio i magistrati. Sarebbe come pretendere che i medici non parlino di sanità, gli insegnanti di scuola, i giornali di informazione. Forse il ministro Alfano non vuole che i magistrati parlino più di tanto, perché se parlano i tecnici magari il processo breve viene fuori nella sua realtà, non è un processo abbreviato ma un processo ammazzato, allora conviene che certe cose non si sappiano. Ma voglio smetterla col tono scherzoso, col tono ironico, così per alleggerire il tema. Io sono convinto che in una situazione meno conflittuale di quella di oggi le cose potrebbero anche andare diversamente. Sarebbe forse possibile, persino preferibile, una minore esposizione dei magistrati, una minore partecipazione dei magistrati al dibattito pubblico. Ma sono altrettanto convinto che qui ed ora, oggi, viviamo una stagione di grandi asprezze, di terribili difficoltà, di contrasti spesso furibondi, e non sicuramente per colpa dei magistrati. Una stagione quindi che, lungi dall'imporre il silenzio, richiede ai magistrati, ne sono convinto, la parola, l'intervento. Cioè le dice sarebbe auspicabile meno parola, ma in questo momento storico, secondo lei, non è bene stare zitti? No, non solo perché parlare è un diritto per parlare, intervenire, sì, certo, partecipare al dibattito, è un diritto personalissimo dei magistrati come di qualunque cittadino, ma un contributo, trattandosi di tecnici, potenzialmente utile alla realizzazione di una giustizia migliore. Cioè la partecipazione anche dei magistrati al dibattito, al confronto culturale sui temi della giustizia, mi sembra importante. Evidentemente occorrono equilibrio, senso della misura, ma dire questo significa sfondare delle porte aperte. Tra i limiti c'è quello principale secondo cui il magistrato di tutto può parlare, di tutto può scrivere, ma non dei propri processi. Un limite sacrosanto, sì, che però non esclude che rispetto alla questione posta dal Ministro si possa rilanciare, ponendo alcuni interrogativi, a parte che la legge impone al Procuratore della Repubblica di intervenire, dà soltanto al Procuratore della Repubblica il potere dovere di intervenire, ma è la legge che gli dà questo potere dovere. Sì, non magari i PM, o si dice i PM che sono implicati, che portano avanti il processo. Non mi risulta che ci siano PM che parlano dei singoli processi, sono PM che parlano di questioni, sì, di carattere generale. Se parlassero dei singoli processi sicuramente il Ministro interverrebbe. Non interviene perché non può intervenire, non può così vietare il dibattito su temi culturali di carattere generale. Però rilanciare rispetto alle prospettazioni del Ministro, perché assistiamo ad un processo sempre più frequentemente interpretato, oserei dire recitato, sugli organi di informazione dalle parti private. E allora può darsi, mi pongo una domanda, che ci siano alcuni specifici casi concreti in cui sarebbe opportuna una lettura speculare ad opera anche della parte pubblica. Poi c'è lo strapotere dei media, spesso con imprecisioni, fantasie, e a fronte di questa situazione domanda di nuovo potrebbe essere opportuno bilanciare con precisazioni, chiarimenti da parte del magistrato le disinformazioni serpeggianti, anche a protezione dei soggetti privati che vi sono coinvolti. Procuratore, nel salutarla e nel ringraziarla, il procuratore Ingroia oggi ha detto: in TV vanno gli imputati e non possono andare i magistrati? Sì, questa è un'altra considerazione che mi sembra legittima e doveroso fare, ma ne vorrei fare, se ho ancora pochi secondi, una. Il ministro dice: non andate in televisione, lavorate di più. Posso assicurare che chi partecipa a pubblici dibattiti, io sono uno di questi, sa benissimo che deve essere inattaccabile per quanto riguarda la sua produttività, per cui fa davvero di tutto e di più per prevenire ogni possibile obiezione circa l'impegno effettivo profuso quotidianamente in ufficio. Piuttosto, l'esternazione del ministro sollecita riflessioni sul lavoro nelle procure da un altro punto di vista. Il problema vero non è qualche magistrato che va in televisione, ma delle procure che sono sempre più sguarnite di magistrati. I posti scoperti, soprattutto in Sicilia e in Calabria, ma non solo, sono ormai moltissimi, con un concreto rischio di paralisi degli uffici. E su questo tra l'altro si è innescata una polemica proprio con lo stesso ministro Alfano, che a dire la colpa, soprattutto la mancanza d'aiuto, è il sindacato delle toghe, quello dell'ANM. Io intanto, procuratore, la ringrazio. Oggi tra l'altro a Torino si apre un importante processo, quello all'Eternit. Ringrazio il procuratore Giancarlo Caselli, procuratore capo a Torino, per essere stato con noi. Intanto voglio dire che, per quel che riguarda il sondaggio, il 55% di voi, 54% per la verità, si dice non d'accordo con Alfano, quindi siete divisi, insomma una leggera prevalenza, 46 a favore di Alfano, delle parole di Alfano, 54 no. Voglio salutare, perché hanno ascoltato il procuratore Caselli, sono con noi, l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei e ai suoi interlocutori. Così come il suo interlocutore è Luigi De Magistris, che saluto. Buongiorno europarlamentare dell'Italia dei Valori, ex magistrato. Ben ritrovato De Magistris. Buongiorno a lei, ascoltatore. Allora, Stracquadagno, ma è vero che io ho letto in passato, mi corregga se sbaglio o se è la sua posizione, lei in passato avrebbe detto o ha detto: io l'ANM l'abolirei, il sindacato dei magistrati. È vero? Io? Sì. A me la domanda? Sì, certo. Sì. L'abolirebbe, certo. E perché? Certo, perché quando noi abbiamo una associazione il cui scopo dovrebbe essere quello della rappresentanza sindacale e che si comporta invece costantemente come un partito politico, io credo che sia fuori da quelle che sono le sue previsioni legislative. Lei si immagina se noi avessimo un sindacato dei militari che desse pareri del tipo di quelli che dall'ANM sulla politica da parte dei generali e dei colonnelli? Sarebbe tacciata di golpismo. Allora non si capisce perché una organizzazione di funzionari dello Stato, che dovrebbero essere soggetti alla legge, non protagonisti del fare le leggi, si comportano invece come militanti o membri di un partito politico e intervengono a ogni piè sospinto sulle attività del Parlamento, che dovrebbe avere invece una sovranità pubblica, perché il Parlamento è rappresentanza del popolo sovrano e fa le leggi per conto e per nome dei cittadini italiani. Lei è d'accordo con le parole del ministro Alfano, a dire meno in TV, meno ai convegni, più lavoro? Mi perdoni, io le faccio la domanda opposta: sarebbe auspicabile più in TV e meno arresti? Perché questo è l'opposto delle parole del ministro Alfano. Ma sono il contrario alle parole del ministro Alfano. Dice: meglio avere più magistrati in televisione e nei convegni e averne che stiano meno tempo in procura e che facciano meno arresti. Oppure chi è contrario dice le cose. Parole siano paradossali. Oppure chi è contrario dice le cose non confliggono. Non è che se uno va in TV sera non arresta un latitante. Sono cose che confliggono ampiamente. Ne vogliamo prendere qualcuno ad esempio che il ministro Alfano non ha fatto, ma che io faccio, e che a cui il procuratore Caselli in qualche modo ha accennato senza dirlo? Ci sono state alcune puntate di Anno Zero in cui è stato presente un pubblico ministero che ha parlato dei procedimenti di cui lui si occupa. Chi? Me lo dica io. Il dottor Ingroia. Ah, Ingroia. Il dottor Ingroia ha parlato dei procedimenti di cui lui si sta occupando e ha parlato... e ha riportato il processo come se si stesse svolgendo in televisione. Non solo, quando il dottor Ingroia dice ci vanno gli imputati, non ci possono andare i magistrati, dice uno sproposito, perché la posizione dei due è profondamente diversa. Mm. Un imputato è, fino a prova del contrario, un privato cittadino. Sì. Un magistrato è un rappresentante dello Stato, soggetto alla legge, e se è un sostituto procuratore, come ha ricordato bene il procuratore Caselli, non può parlare del procedimento in corso. Per le mani. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Meno in TV, meno ai convegni, più in procura per arrestare i latitanti. Questo ha detto il ministro Alfano. Siete d'accordo o no? Per il momento sempre il 46% è d'accordo, il 54% no. Onorevole Luigi De Magistris, europarlamentare dell'Italia dei Valori, ex magistrato, lei anche da magistrato è andato in TV. Che ne pensa di quello che ha detto Alfano e quello che ha detto l'onorevole Stracquadagno? Ma io innanzitutto sono andato in TV quando mi hanno impedito di fare il magistrato, per tantissimi anni non ero andato, ma non perché lo considerassi un errore o comunque non, che non sia un diritto, perché appunto fatto il magistrato non ce n'era motivo. Qui non mi trovo assolutamente d'accordo con quello che diceva l'onorevole, perché vengono attaccati come al solito i magistrati impegnati in prima linea nelle inchieste contro il crimine organizzato e nelle inchieste sui rapporti tra mafia e politica, tra mafia e istituzioni, per dire in breve i magistrati sgraditi al potere. In secondo luogo dà fastidio che cosa? E questi magistrati dicono le cose come stanno, cioè che il governo sta approvando una serie di provvedimenti che rendono molto più difficile, io dico impediscono, il contrasto al crimine organizzato. E non è assolutamente vero, lo posso dire da magistrato che è stato accusato di lavorare troppo, talmente tanto da interpretare il suo lavoro come una missione, che se vai qualche volta in televisione non è affatto vero che lavori di meno. Tra l'altro, visto che è stato citato personalmente dal prima il dottor Ingroia, sì, ma così vale per altri, si tratta tra dei magistrati che in assoluto sono riconosciuti tra quelli che lavorano di più e che sono di una professionalità e di una capacità indiscusso, quindi non sono d'accordo con queste critiche. Mm. Onorevole Stracquadagno dice dei magistrati, certo, quelli scomodi al potere, quelli che dicono le cose come stanno, ecco i magistrati, perdoni, che vengono attaccati. L'onorevole De Magistris, che è onorevole anche egli, quindi non, sì, fa un qualche confusione. Le critiche che lui ha ricevuto non è per aver lavorato tanto, per lavorato contro il potere, ma per aver lavorato male e con intenti politici, che sono dimostrati poi dalla sua candidatura in un partito che è fondato da un altro magistrato. Ma perché ha lavorato male con intenti politici? Io voglio ricordare che l'onorevole De Magistris mise sotto accusa il ministro della giustizia del governo Prodi, provocandone le dimissioni e la caduta di quel governo e la fine della legislatura. Non è proprio per quell'inchiesta che si è dimesso. In un'inchiesta che si è poi frantumata nel nulla. Ecco. De Magistris replica lei, perché io voglio dire, non era per allora, in quell'inchiesta, era l'inchiesta, guarda, della campagna, adesso dire, no. Ma al di là di questo. Vorrei dire una cosa, sì, solo brevissima, è talmente falso quello che sta dicendo l'onorevole che parla. Io non sono stato trasferito perché ho perseguito intenti politici, questo no, nemmeno no, i miei no, più gravi ragionamento. Quindi questo lo sta dicendo lei, perché hai ovviamente rigore nei confronti dei magistrati che indagano nei confronti del potere. Sono dovuti al fatto che le sue inchieste si sono rivelate bolle di sapone. Non c'è un'inchiesta. Ah, questa è la sua critica a Stracquadagno, De Magistris. No, però, no, vabbè, vabbè. Sono i dati obiettivi dei procedimenti avviati. Vabbè, i dati obiettivi perché sono finite nel nulla. Tutte le dati del giornale, questi dati del giornale di Bertino. Nulla. Vabbè, lei dice sono i dati effettivi, De Magistris dice sono i dati del giornale di Belpietro. No, no, ma infatti anche perché il tema non è questo. Vorrei sapere se si è dimesso effettivamente la magistratura, sì, o si è ancora in aspettativa. Beh, lei certo, non legge il fatto. No, volevo dare a lui l'opportunità di dirlo. Allora lo dica, De Magistris. De Magistris ancora ha fatto un atto pubblico, ma credo di sì. Vabbè. De Magistris, si è dimesso? Questi sono i parlamentari che leggi. Comunque sì, mi sono dimesso, può informarsi anche presso il Quirinale, il CSM, mi sono dimesso, sì. Ex magistrato, almeno su questo Stracquadagno siamo d'accordo, si è dimesso. Stracquadagno, non ho capito. Siccome per alcuni mesi dopo l'elezione non era chiara questa posizione, vabbè, io adesso dare l'opportunità ai magistrati di chiarirla. L'abbiamo chiarita. Ma detto questo, il punto chiave è che il magistrato fa un'attività silenziosa e parla per atti, Tanto è vero, soprattutto il pubblico ministero, che sta in un ufficio gerarchico. Tanto è vero che la legge prevede che l'unico titolato a parlare sia il capo della procura. Il procuratore. E non è vero che un magistrato viene invitato in quanto libero cittadino. Perché nel momento in cui il dottor Borrelli è andato in pensione, nessuno si è più sognato di intervistarlo. Guarda che però il pubblico ministero... Se non come presidente del Conservatore di Milano. In realtà però... Dobbiamo uscire dall'ipocrisia. I magistrati in Italia, come in nessun altro paese, svolgono un ruolo politico da molti anni e questa è una delle anomalie del nostro sistema, perché i ruoli politici vanno svolti da chi è legittimato a far politica e il magistrato invece deve svolgere il suo ruolo di professionista dell'attività giudiziaria. Silenzioso. E nel caso della pubblica accusa di avvocato nell'accusa che sostiene una tesi specifica e che non ha un ruolo nel dibattito pubblico e nel dibattito politico. Da nessuna parte al mondo i magistrati sono soggetto politico umanitario che discutono di leggi, di organizzazione delle leggi. Io ripeto, l'esempio dei militari è il più calzante. Lei ha mai sentito un'organizzazione dei militari discutere sul modello di difesa italiana? La sua posizione è chiarissima. Ho 30 secondi, onorevole De Magistris. Deve lavorare silenziosamente, con gli atti, con le procedure, con i procedimenti, con i documenti, il magistrato, e non parlare, dice l'onorevole Stracquadagno. Caselli invece ha detto una cosa interessante, cioè no, proprio questo è il momento di parlare. Lei che dice? Immagino stia... Ma i magistrati sono innanzitutto dei tecnici, poi questo continuo riferimento ai militari che debbono, quindi bisogna stare in silenzio, un po' mi inquieta. Io penso, spero che siamo ancora in democrazia. E chi meglio dei magistrati e degli avvocati, parliamoci chiaro, dei professori interni e universitari, possono intervenire sulla legislazione in corso. Poi i giudici sono soggetti alla legge, se il Parlamento si assume la responsabilità di approvare una legge, i giudici la rispettano, se è incostituzionale investono la Corte Costituzionale, ma il fatto che non possano criticare leggi criminogene, ad esempio come quella che cancella di fatto le intercettazioni telefoniche, non vedo perché non, anzi non solo è un diritto del magistrato, è un dovere, è una cosa ben diversa. Ci fermiamo qui, grazie all'onorevole Stracquadagno, all'onorevole Luigi De Magistris, così come al procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, che è stato con noi in apertura. Allora il 46% sempre sta con le parole di Alfano, il 54% no, ma insomma questa è la posizione di divisione più o meno vostra. Votate continuamente e poi vi daremo i risultati ovviamente alle 13 come sempre. Oscar Giannino è già pronto per 9 in punto, parla di nucleare oggi e domani, chissà, nel nostro futuro. Grazie a Laura Marchesi in redazione, così come Peter Bescape in regia. Ci ritroviamo domattina 7:30.